Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto da Francesco Galante, bentrovati in questo nostro appuntamento insieme anche all'Adico di Mestre, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Oggi con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, ennesimo caso che ci riporta insomma a quelli che sono i contratti telefonici, credo ormai odiati da molti italiani. È la vicenda di una signora che ha 92 anni, che è, come dire, è stata tartassata in poco tempo da alcuni venditori al telefono, e sono riusciti a farle pronunciare nelle registrazioni il fatidico sì. Sì, ecco, diciamo che non è un fatto nuovo, però è particolarmente odioso se legato appunto a una pensionata di 92 anni che è arrivata da noi disperata, perché poi chiaramente viene dato magari anche da una persona anziana un valore ancora più grande a quello che è successo, e praticamente appunto questa signora si è trovata nell'arco di una settimana con due contratti del gas e dell'energia elettrica con una compagnia e dopo con altri due contratti con un'altra compagnia. Tutto questo è accaduto per telefono sostanzialmente, quindi diciamo che abili operatori sono riusciti a farle dire evidentemente un sì sufficiente perché la povera pensionata si ritrovasse alla fine con quattro contratti non voluti, perché lei assolutamente sta benissimo con il suo attuale fornitore. Queste cose capitano e quindi bisogna stare molto attenti, l'abbiamo detto più volte. La signora si è rivolta a voi, adesso insomma partiranno penso le diffide. Sono già partite, certo, le due richieste di recesso nei tempi giusti. Però ecco Francesco, al di là di questo diritto di ripensamento, magari a qualcuno può anche sfuggire, insomma la cosa è antipatica, perché comunque al di là della possibilità entro 14 giorni di chiedere il recesso dal contratto, è comunque una perdita di tempo o comunque un investimento di un po' di soldi per la raccomandata. Insomma non è giusto secondo noi, e lo stiamo dicendo da tempo, far stipulare dei contratti telefonici alle persone. Ci sembra una cosa assurda. Ecco, bisognerebbe insomma tornare al vecchio sistema del viso a viso e foglio di carta davanti agli occhi con le cose da firmare, no? Ovvio, e proprio per la garanzia insomma di trovarsi di fronte a una persona che veramente voglia stipulare quel contratto, non una persona che nell'ambito di una telefonata pronuncia un sì. E magari una persona di una certa età come quella che abbiamo seguito appunto in questi giorni, è con un sì, uno si trova con un impegnativo nuovo contratto, poi chiaramente deve passare da un operatore all'altro, quindi c'è un momento sicuramente difficile, bisogna staccare una un'utenza e attaccarne un'altra. Insomma, noi vorremmo veramente che si eliminasse questa possibilità di stipulare dei contratti a livello telefonico. Ecco, su questo ci sono state delle proposte, immagino che ci voglia una legge, un decreto. Assolutamente, in questo momento di mercato selvaggio, perché possiamo dire che ormai ci troviamo di fronte a un mercato selvaggio, c'è anche questa possibilità per gli operatori. E Francesco, noi abbiamo tantissime persone che vengono a chiederci un'assistenza per recedere da dei contratti che non hanno richiesto. È chiaro che noi abbiamo poi voluto raccontare la storia di questa pensionata 92enne, perché appunto stiamo pensando che ci siano veramente dei venditori senza scrupoli. Chiariamoci, la pensionata è una persona lucidissima e che non ha alcun tipo di problema, però insomma a una certa età si fa fatica magari anche a sentire, si fa fatica a entrare in questi meccanismi, no, del mercato libero, per cui insomma secondo noi non ci troviamo di fronte a una truffa, però ci troviamo di fronte a un comportamento che riteniamo comunque un po' scorretto, vista anche appunto l'età della vittima, ecco, di quadruplo contratto. Succede anche alle persone un po' più giovani di incappare in abili venditori e certe volte non riesci a scrollarteli di dosso. Quindi Purtroppo no, Francesco, e ti dico una cosa, credo che gli amici radioascoltatori che si sentono potranno confermare, almeno molti di loro potranno confermare, cosa sta succedendo in questo periodo con le telefonate quotidiane da parte di venditori di ogni tipo, telefonici, di fornitura di gas, energia elettrica, di Sky o Mediaset, quindi devo dire che è diventata una situazione quasi ingestibile, perché queste persone telefonano a qualsiasi ora del giorno, non dico della notte, e in qualsiasi tipo di giornata, anche nei festivi. Allora, in molti ci chiedono cosa si possa fare per evitare questo. Noi ci teniamo a dare l'unico, forse, consiglio che attualmente può avere una certa utilità, cioè che è quello di iscriversi al registro delle opposizioni. Che cos'è? Allora, è un registro, non è nato da molto tra l'altro, è un registro, semplicissimo registro, che praticamente serve per segnalare le situazioni di disturbo, tra virgolette, al garante. Cosa succede? Succede, intanto dico subito a Francesco, iscriversi è alquanto semplice, si va nel sito che è www.registrodelleopposizioni.it e si segue una delle modalità proposte, perché si può richiedere o telefonando o via web o come raccomandato con un fax o una mail. Basta seguire le indicazioni, dare 4 dati e insomma, bene o male, si è iscritti a questo registro. Cosa succede? Succede che in teoria, qui uso il condizionale, le aziende prima di chiamare dovrebbero vedere se il soggetto è iscritto al registro delle opposizioni. E quindi questo dovrebbe essere già un vantaggio, nel senso che l'azienda non dovrebbe chiamare gli utenti iscritti al registro delle opposizioni. È pur vero che lo fanno sempre lo stesso o spesso. Però nel momento in cui l'utente sente questa telefonata, diciamo, di disturbo, basta che dica: guardi che io sono iscritto al registro delle opposizioni, e può stare tranquillo che dall'altra parte del telefono la telefonata finirà, insomma, immediatamente, perché il garante prevede sanzioni di rilievo per le aziende che non rispettano questa legittima richiesta dell'utente, quindi di non essere disturbato. Quindi attualmente, Francesco, è l'unica cosa che si può fare che un po' aiuta sotto questo profilo. Non risolve il problema del tutto, però insomma, diciamo, è l'unico mezzo per evitare, insomma, di ricevere telefonate a ogni ora del giorno. Beh, mi sembra che comunque è un buon consiglio, quindi ridimmi il sito, che così... Sì. Allora, è chiaramente www.registrodelleopposizioni, tutto attaccato, .it. Fantastico, io sono sicuro che anche questo piccolo segnale è un po' un aiuto per chi magari vuole scrollarsi di dosso qualche venditore attaccaticcio, diciamo così. Penso che possa tornare utile, perché siamo in un periodo drammatico da questo punto di vista. Allora, io ringrazio Gianluca Codognato dell'Adico per averci così raccontato questa ennesima vicenda. L'appuntamento con l'Adico è rinnovato a lunedì prossimo. Grazie, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.